Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchesi, due edizioni 6.30, 13.30, Italia in controluce, parlano di cronaca italiana, di politica, di costume, cultura e spettacolo. La vicenda Battisti spacca di nuovo in due la Francia, come nel 2004, quando l'Italia chiese l'estradizione di diversi ex terroristi che avevano trovato asilo grazie alla dottrina Mitterrand. Nicola Accardo ha intervistato a Parigi due protagonisti di questo scontro mediatico. Gilles Martin Chauffier è il caporedattore di Paris Match, il settimanale che andò a trovare Cesare Battisti in carcere e gli affidò una rubrica. Lo ha persino invitato a cena pochi giorni prima della sua fuga in Brasile, quando nel 2007 i poliziotti francesi lo lasciarono scappare. Je pense que Cesare Battisti, c'est pas une affaire politique. Penso che quello di Cesare Battisti non sia un caso politico, ma un semplice errore giudiziario. Non credo che abbia commesso gli omicidi di cui è accusato. Dopo quegli omicidi è stato in prigione in Italia per tanti mesi, senza che nessuno lo sospettasse. Poi è fuggito e solo diversi anni dopo dei pentiti l'hanno accusato di quelle morti. Que des repentis ont dit c'est lui qui avait commis ces meurtres. Come lui la pensano diversi intellettuali francesi che da tempo sostengono la causa dell'ex terrorista, diventato in Francia uno scrittore di gialli. Tra questi intellettuali ci sono Daniel Pennac e Fred Vargas, ma soprattutto il filosofo Bernard-Henri Lévy. Il giornalista di Le Figaro Guillaume Perrault, nel suo libro La generazione Battisti, punta il dito contro questi intellettuali. La réalité du dossier judiciaire de Battisti. L'aspetto giudiziario del caso Battisti per loro non ha nessuna importanza. Quello che li motiva è una solidarietà generazionale e ideologica. Cesare Battisti è l'immagine della loro cattiva coscienza, ovvero di quello che sarebbero potuti diventare loro stessi. Anche loro erano militanti di estrema sinistra negli anni 70, ma si sono fermati in tempo prima di cominciare la lotta armata. Per questo sono pronti a tutto per difenderlo, perfino a negare l'evidenza. Y compris à nier l'évidence. Le ultime parole di Fred Vargas e Bernard-Henri Lévy, che esultavano la decisione di Lula di negare l'estradizione di Battisti, hanno creato una forte indignazione in Italia, sia a destra che a sinistra. Per la Vargas, Battisti evita così un futuro incerto e difficile che lo aspetta in Italia. Mentre Henri Lévy è andato oltre, si è detto sicuro che la decisione di Lula conforta i tanti italiani che vogliono dimenticare gli anni di piombo. Gilles Martin Chauffier lo difende. Non c'è bisogno di essere italiani per esprimere un giudizio sugli italiani. Bernard-Henri Lévy conosce molto bene l'Italia. Siamo nell'Europa Unita, non vedo perché Lévy non abbia il diritto di parlare dell'Italia. È utile che gli intellettuali francesi prendano la parola per dire anche noi abbiamo avuto i nostri drammi nazionali, certamente non gli anni di piombo, ma la guerra di Algeria, in cui vennero commessi crimini atroci, ma abbiamo voluto voltare pagina prima possibile. E un giorno ho deciso che fallait tourner la page. E quindi anche gli italiani dovrebbero dimenticare Battisti. Cesare Battisti ha passato des années en prison, il a été pourchassé en Italie, il a été pourchassé en France, il a été pourchassé. Cesare Battisti è stato in prigione in Italia, in Francia, in Brasile, la sua vita è rovinata. Questo accanimento contro un solo uomo da parte di una grande democrazia è un po' odioso. C'est un peu odieux. Ma come ha fatto Cesare Battisti a far innamorare l'intelligenza francese? Bisogna tornare alla metà degli anni Ottanta, quando il presidente François Mitterrand concesse l'immunità a tutti gli attivisti politici che avessero rinunciato alla violenza. Guillaume Perrault. Battisti e ses amis italiens. Battisti e i suoi amici italiani, gli altri brigatisti che si erano rifugiati in Francia, volevano fare credere che l'Italia degli anni 70 fosse come il Cile di Pinochet. Ebbene, hanno trovato in Francia persone pronte a crederci ciecamente, senza neppure verificarlo di persona. Battisti ha fatto un discorso che corrispondeva perfettamente a tutti i pregiudizi politici di una parte degli intellettuali francesi. D'une partie des intellectuels français. La generazione del 68 ha forse anche paura di perdere peso nell'opinione pubblica. Si vuole, ce sont des gens qui ont été gâtés par le sort. Queste persone sono nate con la camicia, hanno sempre avuto l'abitudine di essere ascoltati, creduti e rispetti. Nel caso di Battisti è una delle prime volte che incontrano una forte resistenza. Ne sono stupiti ed è per questo che difendono anche la propria immagine in questa vicenda. C'est un peu eux-mêmes et leur influence et l'image d'eux-mêmes qui défendent dans cette affaire. Ad aiutarli ci pensano anche i mezzi di informazione. Ascoltando la radio in Francia si sente parlare di Battisti solo come attivista, mai come terrorista.

ma nella realtà hanno la disponibilità di beni di lusso, sia mobili che immobili. La difesa del Made in Italy passa quindi anche per le vie dell'Esquilino e più in generale per Roma, dove secondo le ultime stime transita circa il 20% di tutte le merci contraffatte che circolano in Italia, un giro d'affari illecito che tocca il 1,5 miliardi di euro all'anno solo nella capitale, soldi italiani che però parlano anche cinese. Termina qui la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo il blog di questo programma con i post, radio24.it. Poi trovate un gruppo su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce, un altro su Twitter in Controluce e anche la mail controluce@radio24.it. Servono questi luoghi naturalmente per comunicare con voi quello che noi facciamo tutti i giorni, ma anche per sapere e cercare di capire cosa voi preferite, anche le notizie che vengono dalle città, dai paesi, dai luoghi anche più sperduti del nostro paese. La mia voce torna oggi nella seconda edizione su Radio 24 alle 13:30.